Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. E anche oggi a Natale, il riposo del guerriero. Buon Natale a tutti, buona giornata ovviamente da Stefano Gallarini. Immagino siate alle prese con quello che è il pranzo natalizio, almeno mi auguro che sia così. Se non dovesse essere così, fa niente, siamo noi, festeggiamo comunque sia con l'ascolto della radio qui su Radio 24. Anche oggi il riposo del guerriero e oggi chiaramente parliamo di Natale, parliamo soprattutto della magia del Natale con un ospite che tra poco vi svelerò e soprattutto con dei regali, perché nella parte finale della puntata, quindi intorno alle 12:15, avremo lo spazio dedicato al mondo dei videogiochi e per due ascoltatori c'è in premio una confezione speciale di un videogioco del quale vi parlerò, con addirittura un elicottero radiocomandato all'interno. Quindi insomma un modo per avere un regalo anche da parte del riposo del guerriero. E visto che è Natale, ovviamente cominciamo a festeggiare con questa canzone. Bobby Sherman con il Jingle Bell Rock, la versione è una delle tante, però secondo me questa è assolutamente la più bella, e ho l'onore di avere ospite in questa giornata natalizia Raul Cremona. Ciao Raul, buongiorno. Sim salamin. Vediamo se è successo qualcosa nel frattempo. No, hai detto la parola magica, ma non è successo. Siamo rimasti dove eravamo. Tu quando hai smesso di credere a Babbo Natale? Ma penso verso i 6-7 anni, quando ho scoperto che tutti i regali si trovavano nell'armadio. Allora, guardando, c'è una pacca di scatolette, scatoloni. Ecco, come ci sei rimasto? Sono rimasto un po' così, come dire, un po' deluso, devo dire. Io mi svegliavo ogni Natale prima. Sì. Perché aspettavo di vedere Gesù Bambino, perché per me era Gesù Bambino che scendeva dal cielo, e ogni volta dicevo, allora, ma arriva sempre più presto, perché i regali erano già presenti. Poi ho beccato i miei invece, quindi lì mi sono accorto. Poi dopo diventi cattivo e dici al fratello più piccolo come stanno le cose. Ma io ero il più piccolo e quindi ero non, più grande, non mi è successo. Babbo Natale è una fregatura, non esiste. Ma vieni che ti faccio vedere qua nell'interno dell'armadio. E mio fratello Quindi hai fatto perdere la magia del Natale prima, ovviamente. Ma sì, sai come era un sistema anche per capire che diventavamo grandi, insomma. È vero, era un peccato che non credere più a Babbo Natale. Ma noi invece vogliamo credere oggi nella magia del Natale. Il Natale è fatto di tanti simboli, ovviamente, certo. E da cosa vogliamo partire? Così, abbiamo cose da raccontarvi oggi che riguardano proprio la magia del Natale. Lo sai che è un tema ricorrente quando è presente il mago e la prestidiri, giri, miri, assolutamente ziri, sì. Non si può uscire da questo. Ma non lo so, regali di Natale, io parlerei per esempio dei regali, si potrebbe parlare dei regali che per esempio l'illusionismo, per dirne una, ha fatto a tutti noi, no? Per dire, tutto quello che ci è stato regalato dalla prestigiazione, la gente non sa neanche da dove cominciare, non sappiamo neanche noi da cominciare. Ma anche perché gli illusionisti, per poter creare le loro magie, appunto, avevano bisogno di della scienza, avevano bisogno di cercare qualcosa che la gente non conoscesse, ecco, anche perché c'era molta meno informazione all'epoca, quindi. Ma facciamo un salto indietro, pensiamo che l'alchimista, che era l'antenato del chimico, era fondo un po' mago, no? Insomma, mescolando tutte queste cose qua, chissà quante cose sono venute fuori. L'oro non usciva, però. L'oro non usciva mai, il famoso oro potabile, o l'elisir di lunga vita, oppure come si chiamava. Non saltava fuori mai, o meno qualcuno dice di averlo trovato, ma tu l'hai visto? No, non mai, neanche la formula ho mai nell'attesa letto. Che sì. Però potremmo fare una lista di cose che in mano agli alchimisti, in mano ai prestigiatori, poi sono diventate anche di come si dice, di uso comune. Per esempio, ho fatto una lista, sì? il licopodio. Allora adesso sfido gli ascoltatori a sapere cosa sia il licopodio. Cos'è il licopodio? Il licopodio è una pianta, la spora di questa pianta è certamente infiammabile. Hai mai giocato con l'accendino quando ci sono i pioppi? Come no, sì. Che fai così e prende tutto il fuoco sotto i pioppi, ci sono tutte questa lana bianca, è presente? Ci siamo divertiti tutti con la lana bianca sotto i pioppi quando cadono le spore, che si forma quel manto di roba bianca. Sì, vai, esatto. Lì con l'accendino, non l'ho mai fatto. Prende fuoco tutto. Ma quello immagino, però non l'ho mai fatto. Attentissimo, non l'hai fatto. Ti insegnerò a fare. Allora vi svelerò un segreto. Quello non è l'icopodio. No, no, certo, abbiamo capito. L'icopodio. Quello è la preparazione al discorso dell'icopodio. Cioè, se non hai mai giocato con quel manto bianco che con l'accendino fai prende fuoco, l'icopodio è una pianta ancora più. La spora dell'icopodio è ancora più infiammabile e fa degli effetti che sono. Ma la devi incendiare? Certo. No, è una polverina che tra l'altro si può usare anche in, come si dice, in omeopatia, sì. Mangiandola. Si fanno dei giochi di prestigio straordinari. Se tu prendi questa polvere che è sottile, la metti in un bicchiere d'acqua, sì. E metti una moneta prima nel bicchiere d'acqua e poi tu vai dentro con le dita a prendere il bicchiere d'acqua, questa, il polvere di licopodio crea una specie di patina sopra, tu vai a prendere la moneta senza bagnarti le mani. Primo gioco di prestigio. Quindi potete farlo anche voi a casa, l'unica cosa è dove si trova il licopodio. Allora lo vendo io, signori, a prezzi speciali. Lo andiamo a cascia unetto, lo vendo con un prezzo che veramente quando ve lo porto a cascia rimanete veramente male dal prezzo che vi faccio. Poi il licopodio, libidine massima, se tu la infiammi come la spora di cosa lì, fa boom, di quelle fiammate veramente da... Senza botto però, solo senza botto, solo fiammate. Allora io ho un'altra cosa, se voi prendete la scatoletta di svedesi... Sì. E bisogna incendiare, bruciare, sì. La parte dove si accende il fiammifero, quella marrone. Sì. Ecco, viene fuori un olio, si crea un olio. Se quest'olio si mette... L'olio di Pirin Pin Pin. E non so non come si chiama, ha un nome, non lo so. Però voi prendete quest'olio, lo mettete sulle dita e si può tenere tranquillamente lì. Il momento in cui si sfregano le dita esce fumo. Fumo, un altro classico della esatto, prestigiazione. Quindi abbiamo venduto, aggiunto. Tra l'altro sono stati venduti, come si dice, succedanei di quel prodotto lì, sì. Magari in cartine. Eh beh, certo, però si può preparare anche a casa. Sì, ecco. Hai parlato dello zolfanello. Sì, è vero, dei fiammi delle sì, dello svedese in quel caso. Perché adesso sì. Non lo usa più nessuno. Se tu vai dentro una tabaccheria, adesso dici, mi dia uno svedese, quella lì se aveva 17 anni fa. Una volta c'era il Minerva, il Cerino, lo zolfanello, tendeva più a i Minerva si fanno fatica a trovare. Sono più stinti ormai da sempre. Anche perché per la magia i Minerva servono, perché ci sono tanti giochi che si possono fare con i Minerva. I classici, il mago mette la mano sotto la giacca, puff, e tira fuori il fiammifero. Ero già acceso. Questo vedi. È carino. E si può fare con perché sfregandolo si sì. Incendia. Ecco. Diamo per scontato, per esempio, della magia del fiammifero. Provo a pensare la prima volta che il fiammifero è apparso. Adesso provo a pensare, però non mi viene in mente. Ma adesso duro fa così, fa accendere il fiammifero, certo, fa la sigaretta, è facile. Ma pensare nel 600, uno prende un pezzo di legno, lo strofina, questo prende fuoco, la gente fa... Certo, subito a rogo poi, perché minimo magia, era uno stregone, ovviamente. Il riposo del guerriero. La magia del Natale insieme a Raul Cremona, eccoti lì. Cosa stai facendo? Sei un oronzo. Mi sto ossigenando. Infatti ti sembrava così. Se, dopo il licopodio abbiamo parlato ecco, dello licopodio. Sì. Chiudiamolo, sto fatto il licopodio perché ancora capito che cos'è. Una polvere che se gli dai fuoco fa una fiamata incredibile. Io non ho capito dove si compra comunque sia. Lo puoi trovare in erbe delle boristerie, se no devi trovarlo attraverso dei rivenditori specializzati, sì, certo. Prestigiatori. Dall'algabra, lo vendo io a 500.000 lire. E volevo dirti, Pinetti, noto illusionista, lo metteva dentro il bastone, sì. Dentro aveva del carbone acceso, quando colpiva il bastone, la polvere di copodio veniva a contatto con i carboni accesi, boom, fiammata. Forse questa era la famosa polvere di Pirin Pin Pin. Che da piccolo senti la polvere di cos'è la polvere? Forse il licopodio è la polvere di Pirin Pin Pin. Beh, se l'abbiamo quindi scoperto qualcosa di assolutamente la nuovo. La polvere di Pirin Pin Pin. Tu dicevi di aver perso fiducia in Babbo Natale perché hai trovato i regali nell'armadio circa 7 anni. Pensa oggi i ragazzini e ragazzine ovviamente già cioè, si drogano. Volevo dire questo. Volevo dire che possono mettersi in contatto con Babbo Natale anche attraverso questo, perché senti un po' Babbo Natale cosa si è messo a raccontare. Hei kaikki Suomen lapset, kuten kaikki varmasti tiedätte, asun täällä pohjoisessa, kauniissa Lapin maassa. Adesso mi traduci cosa sta dicendo. Questo è Babbo Natale che parla e volevo dirti che è su YouTube. Perché Babbo Natale adesso parla su YouTube. E cosa sta dicendo? La traduzione? Sì, grazie. Vai. La gente che stava di mangiare che rollava, uscendo che io parlavo che non mavo. Ci vuole che la sinistra stava che era magari l'italiano. La gente che avevo io rollava. In realtà sta dicendo che adesso Babbo Natale è su Facebook e tu puoi parlare con Babbo Natale attraverso Facebook. Hai chiesto la sua amicizia, per esempio? Non ci sono più i Babbi Natale di una volta. Assolutamente no. Alfio Maggiolini, ciao, buona domenica. Ciao. Ciao Alfio e buon Natale. Soprattutto tu e tuo figlio Michele avete scritto la vera storia di Babbo Natale. Sì, volevamo raccontare da dove viene questo personaggio che ormai sembra appunto diffuso sempre di più e è un mito, una specie di eroe moderno, quasi un dio per bambini. Ecco, ho capito, ma da dove viene, scusami, perché pare che la sua nascita sia stata nel 1822 in America, però poi perché la Lapponia, la Finlandia, se cioè non si capisce, è vero che si sposta velocemente, grazie, scusate, ma c'è Rol che fa dei successi. No, è stato un pastore protestante che l'ha inventato riprendendo delle vecchie leggende. Sì. Erano un po' a fondamento della nascita di New York, erano gli americani che volevano avere una specie di santo protettore di New York e lui una sera si è inventato un racconto per i suoi figli, lui stesso l'aveva definito una sciocchezza perché era un serioso studioso di religione e poi questo racconto che raccontava appunto di Babbo Natale che scendeva dal camino a portare dei doni ha avuto un successo straordinario, grazie anche alle riprese che ne sono state fatte successivamente dalla Coca-Cola e in generale dal mondo commerciale. Ecco, Alfio, è vero che Babbo Natale all'inizio era vestito di verde e marrone e poi invece grazie alla Coca-Cola è diventato rosso e bianco? Ma ci sono vari i pareri, effettivamente i colori prima non erano così definiti. C'era già qualche icona di Babbo Natale che lo vestiva di rosso, poi quando la Coca-Cola lo ha ripreso proprio questi colori, da lì in poi è diventato, come dire, impensabile che Babbo Natale possa vestirsi in un altro modo e avere anche una faccia diversa da quella dell'icona di cui siamo abituati. Prima, per esempio, nei primi illustratori fumava la pipa, era diciamo, un personaggio meno bonario e innocente di quanto sia diventato successivamente. Ecco, Babbo Natale bastardo, hanno fatto anche un film in questo per raccontarlo un po' un altro Babbo Natale di una volta. No, perché Raul sosteneva che fumasse, ecco, Babbo Natale, appunto per questo lo si trova dappertutto in qualche modo. Un pancione veramente enorme, sembrava più un buon tempone, diciamo, certo. Uno che se la godeva un po'. Una sorta di Bacco, ecco, esatto, di Dio Bacco. E poi cos'è successo a Babbo Natale? So che si è spostato negli Stati Uniti ed è andato a cercare il freddo, la neve. Come no, mai? No, si è caduto. È stato verso la fine dell'Ottocento. Si è cercato di renderlo sempre più realistico e quindi gli si è trovato una collocazione, se lo si è fatto venire dal Polo Nord, ma è stato successivo questa collocazione. E niente, lo si è messo lì nel freddo. Le renne e la slitta erano già erano comprese, erano originali. Ah, ok. Americano. E invece poi la collocazione è stata successiva. In realtà pare che sia stato un personaggio di una radio finlandese sì. a dire che lui aveva trovato il posto proprio lì dove c'era Babbo Natale, e da lì in poi le cose sono moltiplicate. Addirittura adesso c'è tanto l'indirizzo postale. Ah sì, appunto c'è anche la pagina di Facebook. Che cosa gli racconta mio figlio? E appunto non lo so, poi i tuoi figli ormai sono grandi, Raul, e non lo so. Non so cosa ha raccontato. Alfio, visto che hai scritto questo libro insieme a tuo figlio Michele, cos'è che avevi raccontato a Michele quando era piccolo? Adesso no, è grande. Che c'era Babbo Natale che arrivava, ma senza troppa enfasi. Penso che un eccesso di realismo, sì? A cui stiamo assistendo sempre di più, non è che sia così positivo, bisogna lasciargli, se lo vogliamo usare, poi ogni genitore deciderà, ma se lo vogliamo usare è meglio lasciargli una certa aura un po' così indeterminata. Più lo si rende reale e meno perde, e più perde il senso simbolico che in fondo può avere. Sicuramente, adesso noi stiamo cercando anche di riprendere un po' la magia del Natale e quello che ci può raccontare. Io ti chiedevo questo, Alfio, perché nel libro c'è anche una parte dedicata proprio alla rivelazione del vero Babbo Natale, ovvero il fatto che non ci sia, e voi affrontate anche proprio questo argomento in questo libro, che per metà racconta la vera storia di Babbo Natale e per l'altra racconta appunto l'immagine di questo Babbo Natale che mano a mano sta svanendo, e come dici tu forse c'è troppo realismo, però è bello pensare insomma che sia nato dalla fantasia di qualcuno che, raccontando una storia, ha così creato un personaggio di cui tutto il mondo parla. La vera storia di Babbo Natale, Alfio e Michele Maggiolini, Raffaello Cortina, editore. Buon Natale ancora, grazie Alfio. Grazie, buon Natale. Ciao, ciao. Ciao, grazie, vedi? E stavo pensando che cosa hanno in comune i prestigiatori con Babbo Natale, e questo piccolo fatto, però importante, una volta che tu spieghi che Babbo Natale non esiste, è come quando tu spieghi un gioco di prestigio. Cioè la hai finito tutto. Cioè finisce l'incanto e comincia la delusione. È vero, io ho molti amici che, grazie al cielo, mano a mano che hanno visto giochi, hanno imparato a non voler riscoprire più, certo, perché perdono tutta la proprio... È meglio rimanere nell'ignoranza. Sì, diciamo. L'illusione. Andiamo avanti nelle cose che la magia ha regalato all'illusionismo. Secondo me forse... Cioè che l'illusionismo ha regalato alla magia di tutti i giorni. Forse il più grande regalo è il cinema, dai, diciamolo. Il cinema, per chi non lo sa, è il sogno di un illusionista. Non è mica vero. Sì, ma il sogno in che senso? In che senso? Perché... Nel senso che i primi cinema, i primi film proiettati, erano la seconda parte di un programma di un illusionista. Roberto Denne, il teatro Roberto Denne a Parigi, faceva la prima parte quando aveva il teatro Méliès. Sai che Méliès aveva recuperato il teatro di Roberto Denne. Mm-hmm. Nella prima parte faceva dei giochi di prestigio che erano ancora i classici di Roberto Denne. E nella seconda parte proiettava contro il muro. Ma perché all'epoca appunto il cinema era qualcosa di... Le immagini che riuscivano a muovere. Proviamo a immaginare chi può aver illuminato il cinema, sicuramente un illusionista. La prima volta che ha visto le immagini muoversi, infatti Méliès nei suoi primi film, i suoi primi montaggi sono giochi di prestigio. La donna sparisce, la donna appare, anzi si era detto, perché fare sparire una donna con le scatole, gli scatoloni, questa fatica. Quando invece col cinema, invece poi col cinema faccio pari, certo, infatti si inventò le prime dissolvenze che poi hanno fatto la storia del cinema. Anche i primi fantasmi, per esempio, con il vetro. No? Se andiamo ancora più indietro, nel pre-cinema è sempre patrimonio degli illusionisti, cioè le immagini che si sosseguono, le fantasmagorie, le immagini di fantasmi che appaiono in teatro proiettate da sotto il teatro con degli specchi. Ancora a Disneyland, se vai nella Mansion House, vedi ancora i fantasmi con questo sistema. In effetti, se avete visto il film The Prestige, in The Illusionist, lui nel suo spettacolo, il protagonista, cosa fa? Fa apparire i fantasmi, e in effetti era proprio uno dei numeri che si facevano con teatri costruiti apposta. Pepper Ghost Show, cioè un teatro che aveva una specie di come si dice? Uno specchio, un vetro specchio a 45 sotto il palco. Sotto il palco che proiettava queste immagini, cose da poi c'erano degli attori, in poche parole, gli attori erano veri, questi fantasmi, erano attori veri che recitavano sotto il palco, ma con questo sistema di vetro specchio a 45 gradi, il pubblico non li vedeva perché erano sotto il palco, ma venivano proiettati in modo un po', come si può dire, appunto ghost, sembravano dei fantasmi perché c'erano e non c'erano, insomma è un po' complicato da spiegare. Adesso a Disneyland ancora si usa quella tecnica, sulla avere degli attori si hanno delle immagini che vengono proiettate attraverso delle rifrazioni. Prima ancora di questo c'è la fantasmagoria, cioè la proiezione di attraverso un vetrino dentro i fumi, no? Dove vai presente, c'è una lanterna magica lancia l'immagine contro il fumo in movimento, dà l'idea del movimento dell'immagine proiettata dalla lanterna magica. Questa è prima ancora di quello che avverrà le fantasmagorie sono queste: la lanterna magica, la camera oscura, la lanterna magica, le fantasmagorie, il Pepper Ghost Show, il fenachistiscopio, il pre-cinema e le prime immagini del cinema, certo. Quindi sono sempre sogni di un prestigiatore, di un mago. Ecco, tra l'altro viene in mente questo, se non siete ancora stati alla mostra Pixar, che c'è al PAC a Milano, sarà lì fino al 14 febbraio, magari quei giorni di festa andate a vederlo, perché c'è, tra le tante cose da vedere, anche un'installazione dedicata al mondo del cinema, dove si percepisce perfettamente come funziona il cinema. Non vi svelo niente perché dovete andarla a scoprire, ma è straordinaria ed è assolutamente da guardare. Mi sembra che questo sia un grande regalo dei prestigiatori al mondo, quindi detto questo, Basta, ci stai salutando già così. La tua lista in realtà è molto lunga. Vabbè, tante cose piccole, non so, tutte le cose che... Prendi per esempio... Beh, il cotone lampo l'abbiamo parlato. No, il cotone lampo no, anche perché il cotone lampo è una cosa... È come il licopodio. Un po' come il licopodio, perché... Vabbè, allora, gli illusionisti sanno cos'è il cotone lampo, sì. Che non ha niente a che fare con la cerniera lampo. Perché un'altra è un'altra cosa. La cerniera va dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Invece il cotone lampo... è un po' figlio del, cioè parente stretto dell'icopoglio. Sì, anche perché poi c'è il filo lampo, la carta lampo. Vabbè, ecco. In sostanza si tratta di mettere in ammollo alcuni, sì. Alcuni prodotti tipo il cotone o la carta e inumiditi e poi seccati di questa sostanza, una volta che vengono toccati, ecco, basta, col fuoco. Esatto, anche non una fiamma, basta qualcosa di caldo, cioè tipo anche una sigaretta accesa, sì, non, sì, non sì, ci sì. Deve essere una fiamma. Il primo gioco è fai una pallottolina di cotone lampo, lo metti sì. Nel portacenere, poi sei fumando in, con i compagni, con gli amici. Poi fa una fiammata e dice, ma che cos'è tu? Questo è il sistema più brutto per usare il cotone lampo. Esatto, certo, perché comunque alla fine dice, ma cosa ti stai fumando? Potresti anche chiedere una cosa del genere. però sì. Diciamolo sinceramente, il cotone lampo aveva una utilità, forse non è stato inventato da un prestigiatore, è stato sicuramente inventato da qualche chimico alchimista, era usato per i fucili d'avancarica, cioè si metteva quel cotone dentro, quello venendo a contatto con la scintilla faceva una fiammata che faceva partire la palla nella casa. Ecco, infatti dovete sapere infatti che all'inizio le pistole, i fucili non erano automatici come certo. Oggi, era un po' diverso e per poterli anche gli accendini per fumare non esistevano, certo, erano sì. Fatti con questo sistema. Sì, sì. Quale? E quello di una pietra faceva una scintilla e il cotone lampo prendeva fuoco. Sì. Funzionava così. E dava fuoco a Val delle Pagliuzze. Il cotone lampo è uno degli oggetti fondamentali. Penso che Mr. Forest è l'unico gioco che sappia fare. Cotone lampo, diciamo. Vabbè, perché è anche facile, potete farlo. Michele, ti saluto. Se andate in un negozio. Estendi il tuo repertorio. E no, beh, la fa anche altre cose, ho visto. Sì, cotone cioè, lampo è il suo pezzo forte, che è l'unico che non ho visto, fra l'altro. E quando c'è fuori, wow, puff, la fiammata. Ciao Michele, scusa. Non ti allora, voglio dire, magari poi affrontiamo anche questo. Siccome ormai le case magiche vendono tutte attraverso internet, certo. Quindi tutte queste cose sono anche ormai facili da reperire. Certo. Ecco. Noi quando eravamo piccoli era veramente un sogno, intanto arrivava qualcuno col cotone lampo e te lo vendeva come se fosse oro di roba che è veramente speciale, la diamo a un prezzo speciale a 500.000 lire a cattadillo. Ora volevo solo dire che ci sono gli euro adesso, quindi sì, è un po' diverso. Ma io sono rimasto un po', sono romantico, sono legato a 500.000 lire. Vuoi mettere 500.000 con 500.000 lire, ma 500.000 lire, 500 euro sembra una roba. Sì, intanto non li fanno neanche più adesso. Tra poco non ci saranno neanche più. Ci saranno gli eurini. Vabbè, cambiamo discorso, grazie. Il riposo del guerriero. L'illusionismo ha regalato molto alla magia e viceversa, certo. Ovviamente, e con Corallo Cremona stiamo facendo un po' un elenco delle cose che sono l'eredità di tutto questo. Adesso ti dirò esattamente gli ultimi 4 numeri della tua carta di credito. Sì, vai. Perché li ho memorizzati. Certo, sì. Tu come fai a ricordarti più numeri di telefono o più... Sai come è stato inventato il PIN? No. Quando il tizio, non mi ricordo il nome, ha inventato il PIN, ha chiesto alla moglie, dimmi quanti numeri tu riesci a memorizzare senza fare troppo sforzo, ma che non siano neanche troppo semplici. Lei ha detto 4 numeri. Allora da lì in poi il PIN è sempre stato di 4 cifre. Sì. Sai che era una barzelletta questa? Sai no, come invece... fanno dare i nomi di cinesi ai loro figli? Mettono un cucchiaio sopra una scala di metallo, il cucchiaio scende e fa dring long, cling clang, cling cling bling bling cling clang. Pensavo che fosse una barzelletta, invece... Vabbè, no, quella del PIN sapevo, era il cucchiaio, forse no. Però non hai risposto alla mia domanda. No, non ho risposto alla tua domanda. Come fai a ricordarti i numeri più lunghi, i numeri di 6 cifre? Io so 8. Solo il codice fiscale e basta. Allora chiedilo a me che ti spiego. Certo, attenzione, concentratevi. Sì? Con un codice mnemonico. Certo. Ce n'è uno di un prestigiatore, Harry Loren, che è utilissimo, praticamente difficilissimo da spiegare così. La gente dice, no, ma preferisco ricordarmi i numeri. Però sta attraverso un parsimonioso studio, un'applicazione seria, tu praticamente associ ad ogni numero una lettera, poi costruisci ad ogni numero con quella lettera senza le vocali un con le vocali ma senza le consonanti, un nome che tu possa ricordarti come una macchia mnemonica, e poi tu lo associ a quel qualcosa che ti vuoi, di cui ti vuoi ricordare, cioè un oggetto, una cosa da fare, un numero di telefono. Così sembra complicatissimo. Così complicato. Giordano Bruno già aveva ipotizzato, cioè insegnava proprio a ricordare facendo le associazioni. Le famose, no? Stanze di Giordano Bruno. Ecco, una mente divisa a stanze, no? Come tu entri nella mente, entri in una stanza a sinistra, qui ci metti che cosa? Il guardaroba con i vestiti, a destra ci metti, lui ci metteva tutti sulle cose che si doveva ricordare. Per essere veloci, diciamo a certo livello, sì, ti dico per esempio che D, il numero uno può ricordare la lettera D o T, perché la, sì, D e, certo, la T hanno, sì, praticamente una stanghetta. Una stanghetta. Certo. La N invece, se tu guardi, può essere un 2. Giusto, sì, quindi 2N. La Z anche può essere la Z, lì è l'unica con la Z, è S o Z sta per zero. Ah, ok. Quindi te la devi mettere in testa. Fermiamoci alle prime due. Dio ti sta per 1, N sta per 2. Sì. Okay? Ora tu devi costruire una parola che abbia tutte le vocali che vuoi senza consonanti, con una D o con una T, quella diventa il numero 1, per esempio. Dente. Dente ha dentro diverse consonanti. Ah, c'è una... Dio, sì. Dio, ah, okay. Di, ah, e I e oh, O. Certo. Cosa c'è di meglio che associare uno a Dio? Perché Dio, sì, è uno. Uno, certo. N, per esempio, Neo. Sì. N, beh, costruisci 50, no, sì, 50 parole legate al numero. Hai fatto già il primo esercizio. Poi, nella prossima puntata, vi spiego come associare il nome all'oggetto che vuoi ricordare. Francesca Dragotto, ciao, buongiorno, buon Natale. Buongiorno. Cosa hai regalato a tuo figlio per Natale? È troppo piccolo, forse, sì, però magari così qualcosa gli hai portato. Che cosa? Il girello. Così può andare in giro adesso. Sì, sta provando a camminare, anche se è ancora abbastanza piccolo, e quindi eravamo in un negozio, si è catapultato gettandosi dalle mie braccia su un girello e ho capito che Babbo Natale gli avrebbe dovuto. È giusto, girello. Infatti, voglio ricordare che Diego ha pochi mesi. Esatto, quindi, ne ha 6. Quindi. Allora, Francesca, hai sentito Raul che raccontava del codice mnemonico? Noi lo usiamo per ricordare le parole? Funziona anche così quando parliamo normalmente? Sì, ci sono tantissimi espedienti per ricordare le parole, ad esempio liste, chiamiamoli paradigmi, basati sulla presenza di elementi ricorrenti. Le rime sono un esempio tipico, quindi ricordiamo le parole sulla base di come iniziano, sulla base di come finiscono, oppure il rapporto numero-parola ha dato vita alla crittografia, a tanti esempi che sono a cavallo tra gioco linguistico e codice cifrato, basti pensare ai codici appunto segreti della Seconda Guerra Mondiale. Certo. Allora, siccome siamo in questa giornata di festa e in qualche modo magica, sicuramente, allora toccheremo le parole che hanno a che fare con questa festa. Da cosa cominciamo? Io mi vorrei concentrare essenzialmente su due parole, auguri e brindisi. Sì. Su auguri potremmo parlare per ore, perché si tratta di una parola che arriva direttamente dal mondo antico e che è veramente pregna di una tradizione che abbiamo mantenuto anche se in maniera modificata. La radice ha a che fare con l'augur. Augur è un nome che si riferisce a qualcuno che è in grado, osservando, di fare predizioni, quindi di fare auspici. La radice originaria da cui viene la parola è quella di augeo, in greco auxano, che significa crescere. Quindi dietro la parola augure, da cui poi augurare e augurium, e quindi i nostri auguri, c'è l'idea dell'accrescimento. Il senso originario quindi potrebbe essere l'accrescimento accordato dagli dei ad un'azione e quindi conseguentemente un presagio favorevole. È un presagio. Ciò è colui che dà l'accrescimento, chi dà i presagi favorevoli. Si tratta di una funzione, una vera e propria funzione pubblica nel mondo antico. Gli aruspici. Esattamente, bravo. C'è una differenza, e a questa serie che hai inaugurato tu aggiungendoci l'aruspice aggiungerei anche l'auspicium. Si tratta di tre parole differenti ma il cui senso è complementare. Allora, per quanto riguarda la ruspice che hai nominato, si tratta di una pratica che è di provenienza etrusca e in parte coincide con quella dell'augure, quindi si tratta di interpretare dei segni naturali cercando di intuire dei presagi, degli auspici proprio attraverso l'esame di questi segni, solo che la ruspice lo fa esaminando l'interiora, quindi viene preso principalmente un uccello che invece l'augure osserva, perché l'augure osserva il volo degli uccelli, la ruspice invece lo apre, osserva l'interiore e sulla base della disposizione delle viscere fa delle predizioni. Per quanto riguarda invece auspicium, la radice spec che abbiamo mantenuto in specchio, da speculum, e ha a che fare appunto con l'osservazione, però come suggerisce l'inizio stesso della parola c'è stato un influsso da parte di augur sullo stesso auspicio, perché appunto quell'au non si spiega diversamente se non come effetto di una interferenza. Quindi alla fine della fiera, quando tu fai gli auguri, cioè gli dèi siano con te, quello è un po' il senso. Esattamente, quello che succede, no? Nel senso che poi si dice, devi no? pensare all'interiore di un animale quando fai gli auguri. Sì, preferisco guardare il volo invece dell'animale. Esattamente. Guardiamo il volo e facciamo dei presagi che sono favorevoli. Chiaramente il nostro concetto di auguri è legato all'idea del favorevole, non augureremmo mai del male. Ovviamente. Certo che nel Medioevo si facevano le gabole, si mettevano in una torre degli uccelli nascosti, poi quando si cercava di avere un presagio positivo si dava un bello schioppo all'interno dentro della torre, gli uccelli volavano e qualcuno diceva, la ruspico in questo caso diceva, oggi abbiamo una buona giornata. Ah ma dai, è tutto farlocco proprio. Una gabola. Ma niente, mai niente di vero. No, c'è sempre dietro un mago. Sempre, c'è dietro sempre l'inganno in qualche modo. Vabbè, cosa succede? Possiamo anche farlo alla fine della fiera. Io l'avevo fatto quando facevo salute spiritiche, avevo un mio amico nascosto sul balcone, le tapparelle erano completamente giù e quindi chi era intorno al tavolo non sapeva che ci fosse, no, ma adesso ti racconto questa cosa, non sapeva che ci fosse una persona sul balcone pronta a fare i colpi. Sì. Okay. Quindi quando a un certo punto chiamiamo il come si dice, la presenza soprannaturale, arrivano questi colpi, uno tra i miei amici che erano presenti alla seduta spiritica, non pensando al trucco, si è spaventato talmente tanto che è scappato a casa, ma in preda a un delirio pazzesco, e penso che non se lo possa mai scordare, perché era convinto che ci fosse stato veramente un segno. Sì, fatto uno scherzo, anche quando gli ho spiegato che in realtà era un trucco, ma fatto uno scherzo simile e poi ho fatto la professione. Cioè, sono passato direttamente al lavoro, cioè quel lavoro lì, cioè le sante spiritiche tarocche. Ah, bene, facevano tante nell'Ottocento, ovviamente, ma di questo magari parleremo. Allora, questo auguri, e invece il brindisi, ma niente a che fare ovviamente con la nostra città, immagino. Assolutamente no, si tratta di due omofoni, la parola brindisi è una parola che l'italiano ha introdotto intorno al 1500, la seconda metà del 1500, per effetto di un'interferenza con il mondo germanico. In origine infatti c'è la formula io porto a te questo, letteralmente, tradotto letteralmente dal tedesco. Di conseguenza se togliamo ich, che è io, rimane bring dir, bring dis, bring dirs. Brindisi, insomma, è certo. Una contrazione di una frase che significa letteralmente io porto questo alla tua, di conseguenza alla tua salute, bevo alla tua salute. Ecco, quindi non faremo nessun brindisi, immagino, perché si ci ricorda la Merkel, quindi magari è meglio evitare in questo periodo, non so, magari possiamo dire un'altra cosa, diciamo solo auguri, sì, no, sto scherzando, però sì. No, scusami, non volevo interromperti. No, la cosa interessante è che nel Galateo a un certo punto si parla del brindisi come una tradizione estranea, un'usanza estranea agli italiani che va evitata in quanto di per sé biasimevole. Quindi il della casa invita a non fare il brindisi, cioè sì, esattamente. Non si dice facciamo il brindisi, si fa ma in un altro modo, oppure non si deve proprio fare il gesto del... No, in realtà si è sempre bevuto, tant'è che nel mondo antico è celebre il nunc est bibendum, adesso si deve bere. Nel mondo antico però non esisteva, almeno che io sappia, un termine perfettamente equivalente a brindisi. Dalla radice di bere, che è bibo, si formavano degli aggettivi, dei nomi, me ne vengono in mente due: bibulus, che è proprio colui che beve volentieri, o bibosus, che è avido di bere, quindi in un contesto anche più scherzoso, l'ubriacone. Il ciucatore. Sì. Sì. Ma di interessante sempre nel mondo antico, e quindi in qualche modo di precursore dell'idea del brindisi c'era il bibere ad numerum oppure ad nomen aliquius, letteralmente bere al numero, bere al nome di qualcuno. E qui ritorniamo al rapporto tra numeri e lettere, perché? Perché si guardava quante lettere avesse il nome della persona alla cui salute si voleva bere, sì. Si facevano tanti brindisi e tante bevute, quante erano le lettere che componevano il nome. Le quattro quindi, per Raul, quindi non ci si ubriaca, per me no, sette non ci si ubriaca, sono già tante, sette sono già un po' di più. Quindi in realtà si è sempre bevuta, è una tradizione vecchia quanto certo. L'uomo, però ecco, per quanto riguarda la parola l'abbiamo ripresa dal mondo germanico, mentre curiosamente il verbo brindare l'abbiamo ripreso dallo spagnolo, che ovviamente l'ha ripreso sempre dal mondo germanico, il ceppo originario è sempre quello, soltanto che appunto brindare l'abbiamo ripreso dallo spagnolo che, come il francese, si rifà alla formula che dicevo prima, agli inizi del, siamo intorno al 1600, le prime attestazioni sono 1609, 1610, quindi parliamo veramente ormai di una parola consolidata nell'uso, nella tradizione. Ah, e ho dimenticato di dire che il tramite è stato quello dei mercenari svizzeri, quindi è una parola mercenaria. Cioè loro hanno portato la parola in Italia, questo. La parola senso. È la pratica, la pratica proprio nel senso del rituale, perché appunto la formula io bevo, io porto questo alla tua era accompagnata dal gesto. Spesso il brindisi infatti non si consuma completamente, viene fatto il gesto di accostare il bicchiere alle labbra, ma non necessariamente c'è l'assunzione. È vero. Di semplicemente il gesto è ti do qualcosa, cioè ti offro qualcosa. Sì. Va bene, grazie. Allora, a questo punto abbiamo completato anche la nostra conoscenza, gli auguri e brindisi. Io ti faccio andare a ritrovare Diego, che nel frattempo col girello sarà perso per casa, e auguri a te e a tutti ovviamente. Auguri buon Natale. A voi, ciao. Auguri a tutti. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Francesca, ciao. Il riposo del guerriero. Continuiamo a parlare della magia del Natale, Raul. Stavamo così parlando fuori onda degli automi. Sì, io parlerei più delle tradizioni, sì, anche, no? Sì. Intese come tradizioni vuol dire qualcosa che si fa da sempre, non, come queste parole che abbiamo. Che sentito, si tramanda poi stramanda. Da le padre pattine, in figlio. Per esempio, le pattine, te le ricordi? Le pattine, una tradizione. Batti le pattine! Ma perché c'era un sacco di fatica alle spalle a pulire i pavimenti. Una volta si puliva con la cera. Secondo te qualcuno pulisce più i pavimenti con la cera? No, appunto, però il concetto è quello, no? Quando entrava in casa qualcuno aveva appena pulito i pavimenti, allora la mamma o la nonna ti chiedeva di mettere le pattine per evitare di risporcarlo di nuovo. No, la striscia per terra, ti ricordi che c'era la striscia? Quando c'era la cera, se tu camminavi con la scarpa lasciavi la striscia, lì era l'origine di una famiglia che si scioglieva. Io mi ricordo solo questo, quando mia madre metteva la cera, appunto, la prima cosa che diceva appena entrato in casa era: attento, ho messo la cera, perché avendo il pavimento in marmo si scivolava certo. Subito, e quindi la sua paura. Ma perché poi bisogna fare mettere la cera sul pavimento? Ma è una cosa, è bella, ma la mette casa più che nessuno? Splende, sì, si metterà ancora, sì, non so. Non l'ho più visto. Non chiederò a me, non guardarmi. La perché donna moderna che mette la cera, ma c'è, il pavimento ingresso non si cera, per cui tradizioni estinte, come tante cose che mi vengono in mente chiaramente dell'infanzia. Per esempio nella casa della vicina, sì, amica della nonna, o qui nella casa della nonna, c'era sempre quell'orologino sotto la campana di vetro con quei testicolini che giravano. Perché quello era il bilanciere, scusami, era quello che dava il tempo all'orologio. Dico, si caricava e girava. Perché si innamorava di questi oggetti. Perché si muoveva. Adesso c'è il quarzo. Ah, ecco, bella, la risposta c'è. Perché si muoveva? Perché era un... un automa. Un automa. Prima ancora, se vai indietro, questi automi avevano sopra delle figure umane, tipo, che ne so, una donna che si guardava in uno specchio, oppure qualcuno che faceva dei piccoli movimenti, per esempio sì. Si muoveva lo specchietto, si muoveva la manina, e più vai indietro c'erano ancora quei bellissimi automi, la gabbietta con dentro il canarino che si fischiettava, e la gente si incantava a vedere che un pezzo di metallo con le sembianze di un candelino potesse prendere vita. Però vedi, c'è anche questo da dire, che oggi la tradizione della l'automa è rimasta nel presepe, perché il presepe con il movimento, sì, devo dire in qualche modo grazie anche alla cineserie, perché alla fine si riescono ad avere delle cose a prezzi molto bassi, però ancora abbiamo il presepe con l'acqua che scorre, certo, il ruscello piuttosto che la mola che gira. Certo, però lì c'è un tentativo di riprodurre, sì, quello che c'era il movimento, la vita quotidiana. Sì. Invece nell'automa, quello che dicevamo prima, c'è il desiderio di stupire. è diverso. Mentre da una parte tu rivedere il presepio che il meccanico che si muove vuol dire ricostruire una tradizione, certo. Invece l'automa che si muove, l'uccellino di metallo che cinguetta, sì, e canta, quindi una cosa impensabile per le persone del 1800, c'era il desiderio di stupire. Questo è un altro regalo che l'illusionista, che il prestigiatore ha regalato alla vita di tutti i giorni. Cioè è prima un sogno di un illusionista, le maître de physique amusante, che si palesa di fronte al pubblico con i suoi automi, con i suoi meccanismi, poi questi automi nel tempo diventano patrimonio di tutti fino ad arrivare a quei testi. Ma perché poi è arrivata l'elettricità e ha tolto, sì, via il fascino, sì, all'automa, perché prima l'automa era soltanto meccanico e quindi ovviamente così destava stupore. Certo. Oggi con l'elettricità non ti stupisci più niente, perché sai, vabbè, c'è un motore dentro, un motorino elettrico, e quindi è finita la magia. E adesso è arrivato il telecomando. Col telecomando abbiamo fatto un salto ancora più là, prima il meccanismo, poi l'elettricità, e adesso l'elettricità comandata a distanza. E quindi abbiamo perso tutto. Certo. Oggi puoi muovere una, puoi dire ad una porta open sesame che si apre, uno dice: ah, cos'hai messo? Una casa domotica, giusto? Una volta era. Allora, Raul si sta riferendo, fra l'altro, al Magic Castle, che credo che quella sia la parola magica per entrare nel Magic Castle. No, open sesame. Open sesame dovrebbe, sì, c'è una libreria che, sì, pronuncia questa parola classica magica, e si la libreria apre. Si apre, accede di là, ci sono una serie di eventi. Non ci sono ancora stato, adesso. Una volta ci andai, quando avevo 18 anni, non mi fecero entrare perché non avevo la cravatta. Ma dai, anche oggi secondo te è obbligatorio? Sì, anche oggi è obbligatorio. Mm. Ci sono stato 5-6 anni fa e sono entrato con una cravatta prestata. Siamo a Los Angeles, credo. Los Angeles, sì. Yes. Okay. Behind the Chinese restaurant. Yes. Dietro al ristorante, cioè, cinese. Ecco, e vi converrà andare al ristorante cinese soltanto perché se non siete invitati al Magic Castle non si può entrare. Si può entrare, assolutamente. Beh, comunque è un luogo dove è un castello, sì, una sorta, una villetta, di mansion, una mansion, no? Ecco, mansion, sì, dove ogni sera viene, c'è la cena, ci sono spettacoli così proposti da tanti maghi del mondo, e bisogna essere invitati da maghi per entrare, se no non si può. Deve essere presentato da un mago, sì, poi dopo puoi accedere, ci sono diverse sale come ti ho detto, alcune fanno degli spettacoli di micromagia, in altre invece magia da salone, altre un pochettino più, ce n'è per tutti i gusti. Torniamo a parlare degli automi. C'era l'inganno anche lì, perché a volte degli automi in realtà non erano tanto automatici ma nascondevano una persona all'interno. Allora, la grande soddisfazione era quella di sapere che praticamente chi mostrava questi automi era un maestro di fisica. Questo era l'attributo che bisognava conquistarsi. Quindi, per esempio, quando Pinetti stupì Parigi con i suoi automi, che invece avevano dei meccanismi che andavano sotto il palcoscenico con dei compari che li muovevano, si attirò addosso l'odio di tutti quei detrattori che poi decretarono anche la sua fine. Mentre invece altri onorati prestigiatori, mostrando, come Robert Houdin per esempio, meccanismi sofisticati ad orologeria, si conquistarono. Ecco, poi parleremo proprio, tornando alle tradizioni, degli automi del famoso giocatore di scacchi, per esempio, certo, che fece anche molto discutere. Io intanto volevo parlare di tradizioni con Daniele Mancini. Ciao, buon Natale Daniele. Buongiorno a tutti. L'amministratore delegato di Casa.it, voi avete fatto con il vostro sito una sorta di sondaggio per capire quali sono le tradizioni che restano ancora per quanto riguarda noi italiani in questa giornata e quelle che invece ormai lasciano il passo ad altre. Da cosa cominciamo? Certo, cominciamo proprio da questo, capire le abitudini e le usanze in Italia per festeggiare il Natale, e in effetti qualche sorpresa c'è, oltre come sempre un buon panettone, l'immancabile albero decorato, continuano sempre ad essere i simboli per eccellenza, ecco che entra una sorpresa: console e videogame. È la prima volta che esce una cosa del genere, quindi non rispetta la vecchia tombola, console e videogame sono preferiti per stare insieme con la famiglia. Cioè, nel senso che si gioca con un videogame, appunto, con tutta la famiglia, al posto che estrarre i numeri della tombola. Sì, risulta proprio questo. Dalle nostre indagini con Casa.it periodicamente facciamo questi studi, sì, e soprattutto questi nuovi videogame che permettono di giocare anche tutti insieme. Non è il tipico videogame della PlayStation, quindi uno da sole, proprio è che coinvolgono tutta la famiglia, sì, i parenti, eccetera. Cioè, si chiamano Family Game, ne parleremo poi anche alla fine della trasmissione di oggi. Ricordo anche gli ascoltatori con un regalo per due ascoltatori. E allora, abbiamo capito, quindi, un po' la tombola è stata scalzata. Strano, perché il bingo comunque non è una tradizione il bingo, ne abbiamo preso dagli Stati Uniti, è la nostra tombola che ha cambiato nome, però voglio dire, molti lo giocano ancora, ma Natale no, ecco, si gioca meno. E sulla tavola cosa abbiamo? Il decori, per esempio, che cosa succede? Come ci stiamo comportando da quel punto di vista? E quanto spenderemo poi, anzi quanto abbiamo speso in questo periodo un po' di crisi? Con il nostro studio sì, abbiamo scoperto che hanno preferito sempre le candele, ma anche iniziano a spendere per un mini led e certamente abbiamo visto anche che rispetto agli altri anni sì, con la crisi c'è stata una più accortezza nello spendere, ma la media all'incirca, il budget medio di spesa è stata tra 200 e 400 euro a persona, e questo è stato destinato sicuramente agli addobbi, a regali a tranche delle 25. Ed ecco che rientra anche qui, come ho detto già prima, la tecnologia, quindi sicuramente, come abbiamo già detto prima, la famiglia oramai è un po' appassionata di game, di videogame, eccetera. Anche io credo che un po' la tecnologia sia associata a quelli che erano gli automi una volta, no? Oggi c'è la tecnologia che li ha sostituiti in qualche modo. Ancora una cosa, Daniele, voi avete chiesto anche se le persone riescono ad attendere il Natale per aprire i regali oppure non ce la fanno e li aprono alla mezzanotte del 24. Come ci comportiamo noi italiani? Ma qui è vero, ma la maggior parte, più del 50%, non riesce a aspettare, sì. Non riesce a aspettare la mattina del 25, quindi appena mezzanotte, allo scoccare della mezzanotte, ecco che il 51% apre i regali di Natale per scoprire tutti i presenti regali. Ecco, di poco però, insomma, è superata la metà. Grazie Daniele Mancini, buon Natale ancora. Grazie a tutti voi, arrivederci. Ciao, ciao. Il risultato ovviamente su casa.it. Cosa credi di questa cosa? Può la tecnologia, no, essere un po' il sostituto dell'automa? Beh, è già diventato, insomma, la tecnologia ha sostituito tutto, si è perso l'incanto, la passione che esisteva una volta per tutto ciò che era, che si poteva riprodurre il movimento o la vita artificiale. Allora aveva, diciamo, questo fascino del magico. Ma forse ce l'ha ancora. Credo, io poi particolarmente non credo proprio. Cioè, per esempio, io non impazzisco per questi film tipo, non faccio i nomi, Harry Potter, per esempio, sì, in cui il mago vola, salta. Ma perché non lo fanno queste cose? Sì, rimarrà. Finisce un po' la magia quando tu pensi che vai da dove vanno, a Hogwarts. Sulle scope, vanno di qua di là, io mi annoio. La Nimbus, cioè. Vuoi mettere per esempio la spada nella roccia quando... Ma sei vecchio, Raul, scusami, anche tu. Aspettavi tutto il film per vedere quella scena lì in cui Mago Merino trasformava Briciola in... A Disney World l'hai estratta la spada dalla roccia? Sì, sono stato l'unico. Ce l'hai fatta davvero? Sì. No, perché sapete che ce n'è una persona che al giorno riesce a farlo, no? Ah, sì. Sì, perché è meccanica ed è bloccata. Ricordo un altro esperimento di un famoso mago, un certo Roberto del Mettere. Ce l'ho. Una scatola per terra e poi diceva ad una persona del pubblico di sollevarla. Ma e poi è ripreso anche nel film The Illusionist, sì, quando lui, Edward Norton, chiede al re di togliere la spada che si è infilata nel pavimento. Mi ricorda l'esperimento sempre della scatola di Roberto Dan. Ah, non vi sviliamo il trucco, ovviamente, però questa scatola era leggera, di legno, sì, però inserendo tipo un fazzoletto, bisogna inserire una cosa, andava pesante e era impossibile da sollevare. Lì, diciamo, il trucco era far credere che l'induzione ipnotica o la persuasione dell'illusionista potesse influenzare lo spettatore. In realtà c'è un trucco. Ah sì? Un trucchissimo. Mi hai tolto via... Vabbè ragazzi, ho tolto il fascino di Natale, via. Il riposo del guerriero. Ancora buon Natale da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero anche in questo giorno natalizio. Vi ricordo che più tardi, intorno alle 11.45, parlando di videogiochi, avrò due confezioni speciali da regalare a due ascoltatori fortunati, si porteranno a casa appunto questo premio. E con me oggi ho l'onore di avere Raul Cremona, e non so in quale versione veste in questo momento. Buon Natale e simsalamin! Eccolo là, va bene. Allora, stiamo parlando di automi, primi di tradizioni del Natale, di quanto l'illusionismo abbia portato la magia. I regali che la magia tecnologia ha fatto a tutti i nostri, a noi, cioè, a tutti i nostri che quotidianamente giorni, in qualche quotidianamente modo riusciamo. Abbiamo parlato di automi prima, avevo accennato al giocatore di scacchi perché era un automa che ha fatto molto discutere, che, perché Von, per anni Von Kempelen, giusto? Sì, o anche l'automa di giocatore di scacchi di Maelzel. Era un, praticamente una scatola, uno scatolone piena di meccanismi, giusto? La gente apriva gli sportelli e vedeva. Non era poi così troppo complicata. No, c'era questa scatola che tu con due ante aprivi, sì, queste due ante e vedevi le rotelle. Non c'erano delle rotelle, però come profondità era impensabile che si potesse nascondere qualcosa, quindi per cui non c'era nulla. No. Sopra c'era un mezzo busto di, fatto di legno. Un turco. Un turco, no? E da lì anche un'altra tradizione, visto che parliamo di tradizione, il turco sapiente, il turco che era anche un automa che usava pinetti, il turco picchiava con un martelletto sulla campana, rispondeva alle domande del pubblico. Invece nel turco di Maelzel praticamente questo mezzo busto muoveva gli scacchi, giocava a scacchi, però e vinceva. Esatto, era proposto come un automa, quindi una macchina, sì, capace macchina, grazie a queste rotelle meccaniche di sapere di la mossa giusta, avere una vita. In realtà c'era un trucco perché c'era una persona nascosta all'interno, un nano. Ma quando se ne sono accorti l'hanno picchiato? Cosa no, non se fatto? Ne sono accorti. Ah, no, mai. Okay. Non se ne sono accorti mai, perché pensa che sfidò persino Napoleone. Napoleone cercò di barare, ma perdette anche Napoleone con il giocatore di scacchi. Ma dai, questo non lo sapevo. Non lo sapevi, sì. No. È rimasto. Prima diciamo l'espositore mostrava l'oggetto, sì, e certo, poi dopo cominciava la partita. Praticamente la persona giocava contro il giocatore e perdeva, perché all'interno quello che muoveva gli scacchi era anche un gran bravo giocatore. Per forza di cose. Per forza, certo, di cose. Per cui perdettero tutti, compreso Napoleone. Rimase, come dire. Come si dice, si arrabbiò moltissimo per essere stato battuto. Certo, battuto. Infatti in quel caso avrebbe dovuto perdere l'automa, no? Far finta, ma invece no, meglio far perdere che Napoleone. Mi viene in mente una cosa, non so se la cosa carina, non sai che nessuno capì come funzionò, se però ci fu un libro di Edgar Allan Poe, sì, in cui lui spiegò esattamente secondo il rigore della sua logica che cosa c'era e come funzionava, e arrivò alla deduzione, però semplicemente pensando, usando la logica, che all'interno non poteva che essere una persona, e indovinò, cioè indovinò, non svelò il trucco, ma ci arrivò per deduzione. Sì, sì, dice secondo me è così, secondo poi è poteva così anche essere ovviamente non la verità. Mi viene in mente una cosa, non so se ricordate, le scacchiere elettroniche, quelle che ti permettono di giocare da solo, no? Erano molto di moda negli anni 90, poi sì, anche molto costose. Ce n'era una che si chiamava Ghost, che non fanno più purtroppo, ma chi ce l'ha se la tenga molto stretta, che muoveva i pezzi da sola. Per cui uno muoveva il suo pezzo e l'altro, la risposta dell'avversario, si muoveva da sola sulla scacchiera. Veniva dentro il computer o su un... No, era proprio una scacchiera fisica, dentro aveva un sistema di magneti che spostavano la pedina, quindi il re, la regina, la torre o quello che doveva, nella casella giusta. E tra l'altro quando mangiava il pezzo, spostava il pezzo fuori dalla scacchiera perché fosse mangiato, e poi prendeva la sua posizione. Ecco, chi ce l'ha se la tenga molto stretta. E questo è sicuramente parente con il famoso giocatore di scacchi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Interessantissimo. Allora, il Natale porta magia, ovviamente. Vi abbiamo spiegato anche qualche trucco da fare, qualche effetto speciale, ecco, da fare nei prossimi giorni, magari per Capodanno, visto che avevano a che fare con il fuoco, ovviamente. Beh, io posso ricordarmi che quando il regalo più bello del mio Natale era una scatola di giochi. Ecco, infatti volevo arrivare lì. Tu hai un personaggio che parte proprio dalla scatola magica, sì, ricevuta per Natale, che è Manipolini. Eccolo. Che è un pochettino, è un omaggio chiaramente a Jerry Lewis, ma è un pochettino l'incarnazione del mago bambino, del mago che comincia con la scatola, come abbiamo cominciato tutti con la scatola. Io non dimenticherò mai la mia scatola, era il 1964. E praticamente sotto l'albero di Natale, oltre al trenino, il fortino degli indiani, la bicicletta, il Natale più bello della mia vita. C'era la scatola di Silvan. Non era quella di Silvan, perché era ancora prima. Sono più vecchio di Silvan, Silvan è arrivato nel 69. Ecco, perché io sono del 64, quindi io nasco in quell'anno lì. In quell'anno lì non c'era ancora Silvan. E quindi per cui le scatole le produceva case tipo la Arco, quella che fa anche la racchetta da ping pong, i biliardini, e faceva questa scatola nera con un bollo con sopra questo cilindro delle carte da gioco, e all'interno c'erano i contenuti, erano poi sempre quelli che si ripetono con gli anni, che ancora oggi trovate identici, identici qua dentro c'è il gioco dei bussolotti di plastica, c'è la bottiglietta del genio con la cordicella che la bottiglietta non si libera, quattro carte truccate, l'unico gioco 5-6 rompicapo, sai, quegli anelli che ma allora devi spag prendere la trancia, la fin track, il mazzo di carte tutte uguali, facevi scegliere una carta, la tua carta è il 7 di cuori, certo. La prima volta era bello, la seconda allora un camosto 7 di cuori, la terza volta 7 di cuori, fammi vedere le carte, c'era l'amico che girava le carte e lì ti trovavi tutti i 7 di cuori e la tua carriera di mago finiva lì. Vabbè, però poteva cominciare una nuova, ancora di mago più bravo. Sì, sì. E quindi hai cominciato da quella scatola, davvero la passione. Veramente, quella scatola sono rimasto colpito. Cioè, vedere quei piccoli oggetti con quel libricino è stato per me un cambiamento. Io è lì che ho cominciato a diventare pazzo, come penso tanti altri bambini, con la scatola. Ecco, tanto tu hai un finale, il Manipolini finisce con una frase, se non mi sbaglio. Mi ricordo più perché sono tanti anni che non lo faccio, ma alla fine finiva in teatro con questo cuore di LED che appariva qua e raccontava, mi pare raccontasse che richiedeva un applauso, uno standing ovation richiesto, perché la nonna, tornando a casa, gli domandava come è andata questa sera. Certo. Il pubblico si è alzato in piedi ed applaudito. Non vorrete mica che racconti una balla a mia nonna. E così la gente si alzava, e questo mago bambino, insomma, che era un omaggio alla mia passione, ma alla passione di tutti i prestigiatori. La passione di tutti i bambini che esorto ad accostarsi alla scatola, basta con questi. Ce l'hai con i videogiochi, tu ce l'hai con le console, la tecnologia, come si dice, l'immaginazione sostituita, ce l'ho. Puoi mettere che il bambino gioca, perché vedi una cosa che invece non riesci a pensare, lezione, un libro, ma anche lezione immagini. Di magia. Oggi studiamo, ti insegno come far sparire un uovo in un tubo, costruiamo il tubo, lo decupiamo, lo rivestiamo, prendiamo l'uovo, è manuale, capisci, sei tu che sei protagonista, invece metti su un dischetto, ti metti lì davanti. Quindi con questa tecnologia io sono, diciamo, un po' contrario. Maggiormente contrario. Ecco, vabbè, e quindi, cioè, parlano di magia, in questo caso parlano di illusionismo. Ormai il YouTube, per esempio, propone e svela ovviamente molti segreti, e molti li vorrebbe anche insegnare, ma tu chiaramente sei assolutamente contrario. Ma sai, spiegare un trucco, te l'ho detto, è come dire che Babbo Natale non esiste. A me quindi, dici, cioè, ritorniamo al tema con te, di oggi la magia. Dobbiamo dirlo che Babbo Natale non esiste? Perché non esiste? Babbo Natale esiste, ecco. Esiste ciò che tu vuoi che esista, fine, basta. E questo dovrebbe essere anche l'atteggiamento verso l'illusione. Anche no? Quando fai il mago, la cosa più bella è che devi credere che veramente quello che stai facendo sia funzionale, esista, cioè un oggetto si muove, una carta può essere immaginata col pensiero. È la chiave di volta per diventare un po' anche attori, no? L'attore immagina di essere quel personaggio, se non ci crede che attore è. Senti, quanto la magia, per esempio, degli elfi, degli gnomi, di tutto questo mondo che sta intorno a Babbo Natale, ha influenzato i maghi nel corso del tempo? Beh, mi ricordo che tanti anni fa, mai dire gol, c'era quel mago, ho visto dei maghi, ho visto degli elfi, dei folletti, poi si tirava giù i pantaloni, diceva, chi non ha capito, non ha capito, chi capisce, non ha capito, mago Gabriel, lo salutiamo, mago Gabriel, ti ricordi che parlava di elfi e folletti? Ecco, l'unica cosa che mi ricordo che ti ha influenzato, un grande mago, il mago Ronzo, che guardando il mago Gabriel si è detto, magari, ma se questi fai vengano i cose degli elfi, pure io posso fare... sparire qualcosa. Gli elfi, mi è venuto in mente subito il mago Gabriel, che salutiamo. Vabbè, no, sono pensato se in qualche modo hanno influenzato, ma forse non più di tanto, cioè comunque restano nel sottobosco, visto che in quello vivono, della magia, però forse non sono stati presi molto molto prestito dagli illusionisti, che hanno preferito altre icone. Sì, gli elfi sono molto nordici, quindi noi siamo molto a sud, quindi il mago a sud, no, è il massimo. Cioè, tutta la nostra tradizione, diciamo, italiana è ben lontana da quella. Non è che e poi dopo bisognerebbe parlare di vari tipi di tipologie di maghi, di prestigiatore, la figura, il frac, queste cose che insomma si allontanano un po' dalla tradizione natalizia. Okay. Però una cosa vera che mi sembra di dire è la scatola dei giochi di prestigio è un regalo natalizio, è un sistema per cominciare. Natale può essere il momento in cui per un giorno solamente i genitori che sono sempre di fretta, che devono andare a lavorare, possono guardare questo bambino di 8 anni con in mano le carte. Ecco, però attenzione, non fatela immediatamente appena aperta la scatola, certo. Ma di questo parleremo infatti, perché è proprio così, uno dei regali più furono richiesti, non lo so, però sicuramente uno dei regali che i genitori più facilmente o i parenti in generale fanno ai propri figli o nipoti che siano. Il riposo del guerriero. E caro Raul e ascoltatori, ovviamente non può essere Natale, ecco, se non così non si fa un salto a Napoli a parlare con Antonio Cantone. Antonio Cantone, buon Natale. Buon Natale anche a lei. Antonio Cantone è titolare Cantone Costabile, arte presepiale, perché insomma il presepe è una tradizione sicuramente anche napoletana, e volevamo capire quali sono stati i personaggi nuovi che più si sono venduti, o in generale quei personaggi che sono stati più venduti quest'anno. Ecco, diciamo che quest'anno la maggior parte della clientela ha optato per l'essenziale, per un ritorno un po' al passato, senza considerare i nuovi personaggi che sono stati realizzati. Quindi voglio dire, si è ritornati al gusto della natività, a un sentimento diverso rispetto alla voglia di innovazione degli altri anni, forse legate anche al periodo storico che attraversiamo. Sì, certo, ma magari perché i personaggi un po' ci hanno stufati, no? Quindi vogliamo ritornare alla tradizione del presepe, che raccontava, è vero, la vita del momento. Ecco, vuoi mettere un bel Berlusconi sotto la grotta? Ecco, quindi per esempio, Monti l'avrete fatto, ovviamente. Allora, io purtroppo sono di quelli che ama scavare nel Settecento, che sono le nostre radici culturali. Ecco, certo. Per cui preferisco fare poche novità, ecco, tra quelli che fanno novità. Però diciamo che è stata la scelta, infatti proprio il fare poche novità e quindi ritornare al passato forse è stata la scelta di quest'anno, però alla fine, perché dovendo spendere per un presepe, a questo punto uno preferisce il presepe classico. Esattamente, ecco. Esattamente. Quindi esattamente. Oltre alla natività, voglio dire, quindi ai personaggi della grotta tipici, quali sono quelli che più si vendono? Allora, il classico Benino, cioè il personaggio che dorme sotto la grotta, quindi aspetta l'annuncio del Signore, e gli angeli è un classico, insomma, di tutte le culture, perché non solo i napoletani acquistano pezzi da presepe o gli italiani, ma anche gli americani, che non capiscono il nostro presepe napoletano, ma che hanno una grossa cultura per l'angelo in generale. Ecco, quindi insomma il personaggio universale, diciamo così, è l'angelo. E c'è una spesa che normalmente si è fatta quest'anno, cioè meno rispetto agli anni passati o di più per il proprio presepe? No, assolutamente si è in calo, anche perché comunque il presepe napoletano ha un costo, perché è un'opera d'arte. Sì. Sicuramente si va a incidere su quello che è il voluttuario, anche se i miei pastori sono degli investimenti. Infatti alcuni amici mi dicevano che dei miei pastori degli anni 80 sono stati venduti a 8 volte il prezzo di acquisto, cioè voglio dire, a certi livelli si investe anche in pastori. Ecco, poi devo dire che comunque si comincia da una cosa e poi ogni anno si aggiunge qualcos'altro, no? Immagino che non è che si butti via il presepe. Molti miei clienti usano fare in questo modo qui, usano comprare ogni anno un pezzettino col gusto di venire a Napoli, certo. Di respirare questo clima, di assaporare la nostra cucina napoletana, e poi prendono un pezzettino da portarsi a casa, un pezzettino di Napoli. I prezzi che così si aggirano intorno a cosa? Da un minimo a un massimo, ovviamente. Allora, io a differenza di qualcun altro e come tanti altri, ho i prezzi esposti tutto l'anno, quindi sì. I miei prezzi sono monitorabili. Quindi non è che Natale aumentino, ecco, sono sempre uguali. Assolutamente, i miei prezzi sono quelli ad agosto e sono quelli a Natale, sono visibili in qualsiasi momento dal mio sito, quindi da questo punto di vista non posso barare. Certo. anche perché non è nei miei costumi. No, e quindi si aggirano da un minimo di a un massimo, allora, di, diciamo, da un minimo di 150, sì, euro a un massimo di 1500 euro per un pastore, ma quello da 1500 euro stiamo parlando di qualcosa di estremamente prezioso, vestito con stoffe autentiche del Settecento, creando una scultura unica, quindi un pezzo mai più ripetibile e non mai realizzato prima, e utilizzando degli accorgimenti che sono tipici del pastore settecentesco. Che sono, per esempio? Allora, le caratteristiche tipiche sono, allora, testa in terracotta, modellata, sì, a mano, dipinta ad olio, gli occhi vengono inseriti a freddo dopo la cottura e sono delle sfere di cristallo dipinte dal di dentro, quindi con tutti e tre i cerchietti. Gli abiti, il corpo è fatto di fil di ferro e paglia stoppa. Le mani e i piedi, quindi gli arti, sono o in terracotta o in legno, e ugualmente dipinti. E gli abiti sono in... L'abbiamo detto, certo. Ecco, Cantone, da quanti anni c'è questa tradizione nella vostra famiglia? Nella mia famiglia dagli anni 60, nella famiglia di mia moglie dagli anni 60, ma qualche antenato ce l'abbiamo anche prima, c'è stato qualche salto generazionale, 1960, per cui. Ecco, quindi continuerà poi i suoi figli a tramandare questa tradizione? Assolutamente sì, anche se la prima bambina, Maria Annunziata, incomincia a modellare, ingressando a 7 anni incomincia a modellare. Ecco, bene, complimenti. Quindi Antonio Cantone, vorrei ricordare il sito, perché io non lo so sinceramente. Allora, il mio sito è artepresepiale.it. Perfetto, così se volete vedere che cosa potrete trovare sotto l'albero la prossima volta e per il prossimo anno potete andare a dare un'occhiata. Grazie ancora Antonio Cantone e auguri, buon Natale ancora. Grazie a lei e buon Natale, la ringrazio. Ecco, a proposito di figli che continuano la tradizione, tu hai cercato in qualche modo di insegnare l'arte dell'illusionismo ai tuoi, oppure non ci hai neanche pensato? Bah, devo dire, io direi al nostro... Sì. Che questa è una cosa bellissima, questa tradizione di continuare, anche perché è l'unico sistema per campare con qualcosa di unico. No? Oggi cosa fanno? Tutti i grafici, invece tu fai i personaggi in terracotta, quando hai imparato a farli tutta la vita vivrai, continua così. Certo, io dico sempre ai miei figli, imparate a fare qualcosa che non sanno fare gli altri, per esempio questo lo fanno tutti, quello lo fanno tutti, quindi tu impara a fare qualcosa. Io ho cercato di insegnare per esempio i rudimenti dell'illusionismo, devo dire che uno proprio non mi ha detto papà, basta, questa è stata la risposta. L'altro invece a metà un po' ci prova, un po' molla, però ogni tanto ha capito che quando ha fatto, già si è esibito un paio di volte, ha fatto vedere un paio di giochi e quindi ha capito l'importanza dell'attenzione che viene investita su di lui, e quindi si sente, diciamo, che per quello del prestigiatore è, come dire, vuol dire esibirsi, vuol dire mostrarsi, vuol dire, quindi bisogna avere anche una certa, e lui ce l'ha, e quindi ha barato delle cose che gli serviranno più avanti, poi lui capirà come, dove, quando, i tempi, i luoghi. Gli hai regalato la scatola del mago? Certo, perché non gli hai regalato la scatola del mago. Casa mia praticamente è un museo. È una grande scatola, che si apre ogni volta, c'è uno sportello, tac, qui c'è un bussolotto, lì c'è una pallina, lì c'è qualcosa che appare, no? Di questo non manca. L'unica cosa è che in casa mia non vorrei riempirla di questi oggetti, quadri che riprendono sempre, perché sennò diventa proprio una malattia. Sì, perché tu sei un po' maniaco da quel punto di vista, diciamo, sì. Un appassionato, insomma, maniaco è una parola, però insomma, nel senso che non ne potresti fare a meno. Ecco, devo dire che Rocco Mona, forse voi non lo sapete, manca una grande passata di decoupage, nel senso che lui, grazie al decoupage, riesce a trasformare gli oggetti in qualcosa di completamente nuovo. Una, ecco, tecnica sola, io faccio tutto marrone e poi dopo passo la gomma là che attacco vari però pezzi. funziona per esempio in teatro, sto mettendo questo spettacolo teatrale, e siccome l'idea è una specie, una tela che si solleva e sul pianerottolo ci sono le cose che il nonno ha lasciato prima che il rigattiere se le venisse a portare, sì, via, e quindi buona parte di queste cose le ho decoupate io, cioè gli ho dato, tanto devono vedersi da lontano, vecchie valigie un po' sporcate per risparmiare maggiormente, anche per rendere assolutamente proprio personale una cosa, ecco. Cosa bella. Lì ritorniamo un po' alla tradizione del prestigiatore, sì, che come di, ma non non solo del prestigiatore, di chiunque. Costruisci le cose con le tue mani e scoprirai qual è la differenza. Quindi tu sei d'accordo, per esempio, nel fare le palline addobbi natalizi fatti a mano, per esempio, cioè metterci delle cose proprie. Perché mi guardi così? Perché sei stato obbligato a fare gli addobbi natalizi manuali. Mi viene in mente che il mio presepe è stato un periodo, era quello già di quello che tiri via dalla carta e lo metti lì già pronto. È assolutamente impersonalissimo. Era impegnativo anche quello, l'ho tolto. Adesso c'ho quegli alberi cinesi, quelli che fai fif, fif, tiri giù le e si illuminano già, basta attaccare la spina. La spina si illuminano. Ma ascolta, tu che la tecnologia tanto così, la poi alla fine mi cadi su questa cosa, non ho capito. Però è faticosa. Vabbè, certo che è faticosa, ovviamente, però veramente è una passione per l'albero di Natale, guardarlo, farlo è un po' più difficile. Io starei ora a guardare gli alberi di Natale degli altri. D'altri, certo, questo è tipico sicuramente. Insomma, no, però, perché poi ogni anno cadiamo sempre lì. Quest'anno quando lo facciamo? Siamo arrivati a farlo anche il 24. Beh, dovrebbe essere Sant'Ambrogio per la tradizione milanese, sì. E poi il giorno dopo per quella italiana in generale. Infatti io ho rispettato la tradizione anche quest'anno. Un anno l'ho fatto il 26 praticamente. Cioè il giorno dopo Natale, a Santo Stefano, grazie. Non è vero, non si fa. Una cosa del genere. No. Che ha detto che porta sfortuna l'albero il giorno dopo? Cacchio, non andrebbe fatto proprio a quel punto. Sì, ma se uno lo fa dopo è come dire... Torniamo alla scatola e dimmi, sì. L'ultima cosa, sì. Buon consiglio, come no? Natale Capodanno, vai all'estero. Non fai niente, non fai né l'albero e ne fai i regali. Sì. Torni dopo, verso il 3 e il 4 e fai 15 giorni alle Maldive o dove vuoi andare. E fai finta che non sia successo niente. Niente, più ti trovi anche i regali. Ma stiamo parlando di tradizioni e tu ce le vuoi cancellare questa in questo modo. Questa è una tradizione, l'ho aperta io. Non via prima. Questa è nuova. No, dicevamo della scatola del Mago di Natale, che non dovete però fare subito quello che trovate nella scatola appena aperta la scatola. Bisogna prima capire quello che si sta facendo. Bisogna studiare un pochettino, per i bambini, sì, applicatevi, cercate di immaginarvi. Adesso al circolo dei prestigiatori di Milano vengono dei ragazzi che hanno 16 anni, 15 anni, sono veramente dei veri studiosi, ce ne sono un paio che si applicano veramente. Questo è il modo giusto per approcciarsi alla prestigiatura, è un'arte che va praticata, che va interiorizzata, poi quando avete in mano i tempi e i modi allora potete esibirvi. Potete cominciare con la scatoletta magica, se sbagliate, tanto quei giochi un po' quasi li conoscono tutti. Sì, ecco, i genitori quindi dovrebbero comunque esortare. No, vai a giocare con la Wii che fai prima, facci spulsante qua, pure c'ho un computer. Ecco, qua. Lo diciamo, grazie, mi hai detto che dopo parliamo di videogiochi, visto che tu in qualche modo non so perché, tu secondo me non hai mai giocato ai videogiochi intelligenti, non so, ce ne sono tanti. Allora, la roba intelligente la lascio agli altri, capito? Io faccio solamente le cose, stupide. No, i videogiochi dopo un po' mi fuma il cervello. Per quello magari lasciamo per... Io ho i fumetti, io leggo un fumetto e sono felice, sono contento. Vecchi fumetti, Tex Willer. Leggete Tex Willer e partite per le vacanze, tornate dopo il 3 e vedete che farete una vita straordinaria. Dormite fino alle 11, fate una bella doccia, mangiate, possibilmente inventato da un amico, vivete così tutta la vita. Questo è un buon sistema per campare. Viva la tradizione! Il riposo del guerriero. Siccome ci stiamo avvicinando al mezzogiorno, Raul, che cosa mangerai tu oggi come pranzo natalizio e poi lo passi con i tuoi oppure, non so, sei a fare spettacolo oggi? No, sicuramente. Lo passiamo insieme con la famiglia, cosa si mangia? Il bollito, sì, con la salsa verde, poi cosa c'è? La viennese, c'è l'insalata russa, i sottaceti, un classico della tortura di quando eravamo piccoli. Perché la tortura? I tortellini in brodo. Non ti piacevano quando eri da piccolo? Duravano fino a mai, è stata la tua cena di Natale, deve essere 5 il pomeriggio che ero ancora lì, adesso arriva il bollito, mamma mia, io da letto sono stato. Ma poi giocavi alla tombola o meno? No, io andavo di là a ravanare tutti i regali. Certo. Ecco, tu li aspettavi il Natale o li aprivi a mezzanotte alle 24? Li aprivo 3-4 giorni prima. Mamma, dai, cacchio, fammeli vedere, mamma, fammi vedere i giochi. No, quando è Natale? Natale te li faccio vedere adesso, va a letto, a dormire. E infatti dovevi aspettare per forza. Sì. Marina Emanuelli, ciao, buon Natale ovviamente, domenica buon anche. Natale. Allora, tu sei l'autrice di un libro molto curioso, si intitola Il Natale è servito. Sì, pranzi natalizi nel mondo. Oh, perché vogliamo capire in realtà nel mondo come si mangia a Natale. Si mangia l'insalata russa anche nel resto. No, Raul stava chiedendo, scusami. Se si mangia anche l'insalata russa nelle altre parti del mondo. O no, o la viennese, eccola. Si mangia per esempio anche in Russia, ma si chiama insalata italiana. Certo, anche perché infatti l'insalata russa è un'altra cosa, è un po' diversa da nostra. Sì, comunque, infatti. Allora, da dove non so, per esempio, l'Inghilterra, ecco, sì. E poi cosa trova in tavola? L'Inghilterra, c'è il classico, che è il classico dolce natalizio, che è il pudding, sì. Che è tanta frutta secca, preparato un mese prima, lasciato riposare, fatto bollire ore, è tradizionalissimo. Però ci sono per esempio anche i pigs in a blanket, che sono le salsiccette avvolte dentro il bacon e passate in forno. Però continuo a preferire il nostro, in generale. Sì, Allora sì, andiamo in Germania. In Germania non lo so, ma in Austria, sinceramente, sì. si mangia la carpa fritta. La carpa? Sì, carpa fritta. Sì. No, scusa, stavo pensando, c'era uno che sta facendo delle facce, non gradiresti. La carpa è un animale veramente... È buonissima, tra l'altro. Grasso, è proprio grasso. È buonissima, la carpa fritta è deliziosa. Poi mangiano anche, fanno tanti tramezzini come antipasti, ci sono delle cose, poi c'è lo Stollen come dolce, insomma ecco, lo Stollen può assomigliare vagamente al nostro panettone, perché ha una pasta lievitata con dentro delle uvette. Ecco Marina, però sì. Natale noi abbiamo poi tradizioni molto diverse anche da regione in regione. Sì, sì. Possiamo dire che quindi il pranzo natalizio più ricco è quello italiano, comunque sia? Senz'altro, senz'altro, perché appunto ogni regione ha la sua specialità. Ad esempio, io sono ligure e a Natale si mangia il capomagro e la sacrepantina, per esempio. Cos'è la sacrepantina? La sacrepantina è una sorta di zuccotto. Ma dolce o salato? È dolce. È uno zuccotto con... Dipende, le ricette sono familiari. Vanno tramandate ovviamente. Tramandate da nonna certo. A nipote, a trisnipote. Però diciamo che è crema con cioccolato, canditi. Assomiglia molto allo zuccotto classico, ecco. Qual è il Natale più strano dal punto di vista gastronomico, secondo te? Dal punto di vista gastronomico, diverso è senz'altro quello etiope. Cosa mangiano? Il kebab. Non hanno specialità natalizie. Cioè mangiano quello che è quotidiano. Ah ecco, quindi non hanno mangiano l'ingera con il wat di pollo, punto. Quindi niente di che, niente di... Però, cioè quello che potrebbero mangiare anche in altri giorni, non so, sì. Hanno anche dei piatti, però strano non ce n'è. Molto diverso sì, ma strano no. Ecco, di molto diverso cosa possiamo trovare? Molto diverso, non so, ecco le ajacas venezuelane, che sono un piatto a base di mais avvolto dentro le foglie di mais con un ripieno di una sorta di ragù, di carne. Ecco Marina, tu come hai raccolto queste ricette? Le hai sperimentate, le hai assaggiate, provate te stessa? Come allora, hai fatto? Ho vissuto moltissimo all'estero. Sì, certo. Tra l'altro ho vissuto per esempio in Venezuela e quindi conosco abbastanza bene il Natale venezuelano, ho vissuto in Brasile, in Argentina, quindi molte le ho sperimentate proprio passando i Natali lì. Altri ho degli amici che sono che mi hanno trasmesso, ecco, la Lituania, per esempio, una mia amica che mi ha raccontato il Natale in Lituania e mi ha fatto assaggiare i piatti del Natale lituano, peraltro a giugno, però insomma. Vabbè, va sempre bene, sempre. Infatti. Un buon pranzo, una buona cena sono graditi in ogni momento dell'anno. Però ovviamente. Effettivamente è roba un po' tosta. Ma secondo te quelli italiani sono i più ricchi da un punto di vista proprio della quantità? Perché sì, insomma il Natale sì, per noi sì, è una tradizione. Sì, ecco. sì forse ci battono gli argentini e i brasiliani. Gli argentini ancora più dei brasiliani, gli argentini mangiano molto. Mangiano quasi le stesse cose che mangiamo noi, tra l'altro, perché mangiano grandi arrosti, grande tacchino, panettoni, salse. Sì, perché in Italia era l'occasione per portare in tavola quello che non avresti mai potuto portare in tavola durante tutto l'anno, per cui aspettavi proprio il Natale. La tradizione italiana si sente molto in Argentina, gli italiani, cioè gli argentini sono molto italiani. Ecco, per cui insomma, pochi ci battono, anzi forse nessuno, ma qualcuno ci può equiparare, ecco, diciamo così. Senz'altro sì. Allora, se volete preparare magari ormai per il prossimo Natale o per il Capodanno qualcosa di completamente nuovo e diverso e associato a una nazione diversa da quella italiana, c'è Pranzi Natali nel Mondo, Edito Edizioni La Linea, e Marina Emanuele l'ha scritto, e quindi sì, il Natale è servito, non Pranzi Natali, sì, il sì, Natale è servito, così si intitola, e l'altro era il sottotitolo. Buon Natale, sì. Grazie Marina. Grazie, buon Natale. Ciao. Ciao, ciao. E continuando a parlare ovviamente di tradizioni natalizie, ma tu non ti sei neanche messo a cucinare una cosa? No, io la tradizione natalizia mia è quella di mangiare, e non è anche a cucinare. Sono seduto, bello servito, arriva la viennese, arriva l'insalata russa. Ma cucini qualche volta o non cucino? Sì, no, cucino, sono anche molto bravo. Come un mago conosco tutti i trucchi, ma scherzi, io prendo il frigorifero, tutta la roba che avanza, la mescolo e creo dei piatti. È una cosa completamente straordinaria. Volevo dirti, però non riesco a capacitarmi come mai, e questa è una cosa sulla quale riflettere, la viennese e l'insalata russa che una volta si vedeva solo a Natale, adesso c'è ovunque, non la mangia nessuno. Perché quando una cosa ce l'hai sempre, alla fine non riesci. Oggi vai in salumeria e dice, ci abbiamo qui davanti, non le prendi mai praticamente. C'era anche quell'altra con i wurster tagliata a dischetti. Ma non so neanche cosa tu stai parlando. Senti, allora, a proposito di queste cose, sentiamo un po' cosa pensa di tutto questo il nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buon Natale. Buon Natale, buon Natale. Com'è il tuo pranzo oggi? Il mio pranzo è quello tradizionale, quello artusiano, quello con i cappelletti in brodo, con il bollito, con i crostini prima di fegatelli di pollo, e quindi più tradizionale di così si muore. Magari potrebbe sembrare molto retro, ma io Natale lo rispetto in questa maniera a tavola. No, guarda, non sei neanche l'unico, perché anche Raul Cremona dice che lui immancabilmente il Natale ha la viennese, poi l'insalata russa. Ecco, e che non so che tradizione sia. Ma quella non lo so, era tutta milanese, non è che sia una gran cosa, però. No, direi che l'insalata russa è molto diffusa su tutto il territorio, a cominciare dal Piemonte. Anch'io devo dire che in Romagna, visto che sono romagnolo, ricordo che mio nonno qualche volta voleva l'insalata russa con magari con la gallina bollita. Certo, certo. Ecco, c'è la tradizione dell'antipasto a Milano, ecco, nel nord in generale. A Natale c'è tanto antipasto. C'è triolini sott'aceto, un classico. E che antipasto era? Poi c'era anche sempre quell'altra variante con i dischi di Wurster tagliati sempre in insalata russa. Qual è la variante, Davide? Tagliati alla julienne, le carote. No, quel Wurster no, mi sembra un po' troppo industrializzato. Secondo me, però vabbè. rispetto a una zona rurale dove sono nato io. C'era di tutto sulla tavola di casa mia. Quello di cui parlavate prima è la giardiniera. Sì, eccola, la giardiniera. Non mi veniva in mente un classico. Ecco, la giardiniera che è un classico, come un classico in alcune zone, sicuramente la mostarda. Ecco, sì, la quella mostarda in alcune zone dell'Emilia è fondamentale, anche perché sui ravioli di zucca qualcuno nella zona mantovana mette la mostarda, ma anche nel cremasco si mette la mostarda. Quindi credo che la mostarda, la giardiniera siano veramente a grande tradizione. Il problema è che la verità è che la giardiniera, la mostarda si trovano sempre più difficilmente fatte in maniera artigianale. Questa è la grande difficoltà. Io devo dire che ho la fortuna di andare a fare pranzo natalizio da persone piemontesi che preparano a mano la giardiniera in insalata russa, per cui non è acquistata, c'era mai fatta, è preparata la giardiniera proprio. C'era la carota tagliata zig zag lì. Sì, va cotta, però non so se tu la compri già preparata, già pronta, ecco, sulla salumiere sotto casa. Vabbè, non è più semplice. Dirò che ultimamente io avevo molta voglia di insalata russa, sì? E ho trovato una trattoria dove ancora fanno l'insalata russa in maniera tradizionale a Villa Raverio, quindi in Brianza, e mi sono tolto questa voglia perché era tantissimo tempo che avrei voluto mangiare una insalata russa così come Dio comanda, e quindi l'ho mangiata e devo dire ci sono tornato una seconda volta proprio solo esclusivamente per l'insalata russa. Davide, fra tutti i Natali, i pranzi natalizi che abbiamo in Italia, perché da regione in regione appunto i pranzi cambiano, come abbiamo anche raccontato prima, e a parte quello della tua tradizione, qual è quello che ti piace di più per qualche o se dovessi mettere insieme, prendendo spunto da questa regione piuttosto che quell'altra, come potrebbe essere il tuo pranzo di Natale perfetto? Ma sai, diciamo scendendo verso il sud, il pesce entra di forza nei menù, ad esempio nel napoletano o in Sicilia entra il famoso capitone, entra e come, il pesce bollito entra, quindi sicuramente non disdegnerei un piatto di pesce, anche se devo dire che Natale io lo vedo molto, come posso dire, molto montanaro, non so perché, nonostante io ami molto il pesce, però lo vedo molto montanaro. E c'è un altro aspetto secondo me importante, che dicembre è uno dei mesi giusti per trovare il pesce straordinario, perché c'è poca richiesta e il pesce è ottimo, e quindi si trova difficilmente che arrivi dall'estero, e soprattutto nazionale sarebbe veramente importante. Ma sai, diciamo di varie tradizioni, ho parlato prima di tradizioni a me vicine nella zona, diciamo, padana, sicuramente del mantovano, d'altro è una cucina che io amo molto, ad esempio i ravioli di zucca del mantovano mi piacciono molto, come mi piace molto tutta la serie di cotechini e di salumi che fanno nella zona del Parmense, quindi io direi che rimarrei abbastanza centro-nord per il giorno di Natale. Attenzione, non vorrei poi passare per... È una scelta. Il giorno di Natale è così, invece l'ultimo dell'anno, sì. Mi piace molto la tradizione, quella appunto fatta di molte superstizioni sudiste, l'uva, il cotechino, le lenticchie. E il pesce, quindi il cotechino non è vero che è al sud, ho detto una stupidaggine. Sì, però va bene, cioè, lo inseriamo nel nostro menù ideale. Diciamo che, va bene. Che il pesce secondo me l'ultimo dell'anno io lo vedo molto bene, anche perché si mangia tardi, quindi il pesce probabilmente si digerisce molto. Davide, meglio. Abbiamo un minuto, secondo te va bene tutto il pranzo di Natale con un metodo classico, per esempio, per accompagnare il nostro pranzo? Sicuramente, io ti aggiungo una cosa, sì. Il metodo classico o champenoise, così andiamo anche da un'altra parte, metodo sì. Classico italiano o champenoise sicuramente va benissimo, anche perché ad esempio se mangi il cotechino o mangi del maiale sgrassa molto bene, le bollicine sgrassano molto bene, e poi diciamo che certe bollicine, come posso dire, abbastanza con le spalle larghe possono andare veramente a tutto pasto, escluso il dolce. Io al dolce sconsiglio vivamente di abbinarlo alle bollicine classico champenoise, lì bisogna andare su bollicine, sul dolce, se si vuole continuare con le bollicine, con un moscato, una malvasia o d'altro, perché il metodo classico veramente non si abbina molto bene con i dolci. Grazie Davide, ancora buon Natale. Ciao. Buon Natale a tutti e buon Natale anche a voi. Ciao ciao. Il riposo del guerriero. Tra poco parleremo di videogiochi nel riposo del guerriero, vedremo un po' a Natale, insomma, cosa è stato regalato, cosa si potrà avere nei prossimi giorni, e poi ricordo che c'è anche un premio per due ascoltatori, ma prima di questo volevo congedare Raul Cremona e ringraziarlo. Ciao, ti lascio un momento al tuo pranzo con tanto di giardiniera, insalata russa, tutto quello che troverai, tante robe, c'è ecco. Di tutto. Però parliamo del tuo spettacolo, perché tu sei in scena con un nuovo spettacolo dal titolo Prestigi. Pensa a te di che cosa può parlare. Certo. Ma è uno spettacolo con dei personaggi nuovi, tra l'altro ce n'è uno che si chiama Yuri. Tu vedi, parli con me, io dice te come tu, con mio nome Piotr Ilich Sergej Vasilievich Yurievich Papachenko. Allora vi ricordo, cioè, dico una cosa, che Raul è tipo, non so, sei mesi, ogni volta che lo vedo fa questo sempre personaggio per entrare Piotr Ilich, nel mio figlio sì. Modest Porfirievich Grigory Fimovich Vladimir Papachenko. E vabbè, siamo entrati. È un illusionista, no, russo? Ah no, c'è no, un altrone, però la macchina della verità, questa macchina di verità attraverso senso. Lei dice te una cosa, tu dici una l'altra, si capisce niente. E prendi uno spettatore. Uno spettatore cioè, che tratta malissimo. Ma come vesti male? Tu vesti, guarda me come sono molto bello vestito, con grandi firme. Tu invece le cose vanno male. Poi tanti giochi di prestigio, c'è però questa voglia di riscoprire un pochettino delle invenzioni. Chiaramente, mio nonno che faceva il prestigiatore, non è vero, però lo faceva in pari. Però io l'ho fatto diventare il prestigiador, che mi dicevo sempre da piccolo. Io pensavo che fosse qualcosa legato alla gastronomia, i conigli, i piccioni, le tortore. No, la nonna diceva no, lui mette i conigli nel cilindro, e il mio amico mi ha detto guarda che se metti i conigli nel cilindro fondi la moto. Va bene, andiamo avanti, lasciamo perdere. Senti, e poi oltre ai giochi di prestigio c'è questi personaggi, un po' di poesia, c'è questa passione per la magia, ci sono delle poesie di Giorgio Bolza, ci sono degli articoli di vari giornalisti che parlano della figura dell'illusionista e si ride, ma anche un po' c'è musica, canzoni, ci si commuove, infatti canti anche, canto, c'è Milano, c'è un po' di cose che ricordano quell'atmosfera che è un po' andata, che però mi piace riscoprire. Per avere le date c'è il tuo sito, c'è il dito, c'è il mio sito, il dito, ho detto, c'è il mio dito, sì. Guarda di qua, guarda di là. Sei come, c'è il mio sito, sei come Babbo Natale, anche tu hai il sito, sì, ovviamente il sito, certo. Sono moderno, sopra sì. C'è la viennese, l'insalata da russa, c'è tutto, non manca niente. Ho debuttato a Chivasso sabato e domenica passati, adesso farò un po' di prove aperte in giro per Milano, per l'Italia, sarò da ripiazze, comunque non saprei dirtela perché è una memoria, nonostante il codice memorico che non funziona, certo. Poi ci sono le date invece a teatro, quindi seguite ralcremona.it, potete trovarlo pure su agd.it, che è il sito che segue più da vicino il mio calendario. Grazie Raul Cremona, buon Natale a te ovviamente. Grazie, tutta la tua vi famiglia. Ringrazio, ora saluto i vostri ascoltatori, corro perché mi aspetta un vassoio di viennese con l'insalata russa e tutto il resto, gli avanzi della cena. Allora buon appetito e adesso noi parliamo di videogiochi. Video game. Puntata speciale e ovviamente natalizia, quella di oggi dedicata al mondo dei videogiochi. E cercherò infatti di fare una rapida carrellata dei titoli più interessanti da giocare in questi giorni di festa. Inoltre, due fortunati ascoltatori si porteranno a casa la versione in edizione limitata di Ace Combat Assault Horizon. In questa versione, oltre al gioco, troveranno anche un elicottero radiocomandato che vola davvero. Ma prima di parlare di Assault Horizon, vediamo gli altri titoli più interessanti con i quali passare il tempo nei prossimi giorni. Skyrim è il quinto capitolo della saga di Elder Scrolls, sviluppata da Bethesda Softworks, iniziata nel 1994 con The Elder Scrolls Arena. Si tratta di un gioco di ruolo che richiede anche azione. Non dovrete quindi solo decidere i comportamenti e il susseguirsi degli eventi da affrontare, ma vi verrà chiesto anche di combattere contro i vostri nemici. Per le ossa di Shor, che ti è successo, ragazzo? Sei nei guai? Zio, per favore, abbassa la voce. Sto bene. Nel paese è scoppiata una guerra civile dopo l'assassinio del suo re. L'impero si trova sull'orlo del baratro e tutte le province imperiali, compresa Skyrim, trovano la situazione adatta per ribellarsi e riprendersi così la propria sovranità. Mentre ciò che rimane dell'impero invia in queste regioni legioni imperiali capitanate da generali. Allo stesso tempo, il dio Alduin, che ha la forma di un drago enorme, nasce per distruggere il mondo. Cosa c'è ora, madre? Era grande come la montagna e nero come la notte. È passato in volo sopra il tumulo. Draghi, ti prego, madre. Di questo passo tutti quanti in città penseranno che sei pazza. Il vostro compito è quello di salvare Skyrim da distruzione certa, scegliendo di far parte della legione imperiale o dei ribelli. In Skyrim il giocatore è libero di esplorare tutto il territorio nel quale si trovano 5 grandi città, alle quali si aggiungono numerosi centri minori. E ogni città ha una propria economia, che il giocatore può aiutare ad accrescere lavorando come agricoltore e minatore, o può operare per danneggiarla. Oltre alle missioni principali, che vanno completate per far procedere la trama, esistono diverse missioni secondarie, generate di volta in volta secondo le abilità del giocatore e il suo progresso all'interno del gioco. Ed è proprio questa la grande peculiarità di Skyrim. Il gioco è pressoché infinito, perché le missioni secondarie vengono create in rapporto a tutto quello che farete. Che succede? E questo chi è? Lui è un amico. Mi ha salvato la vita. Vieni, ti spiegherò tutto. Prima però dobbiamo entrare. Va bene, va bene. Entra dunque. Sigrid ti darà qualcosa da mangiare e potrai raccontarmi tutto. Il giocatore può decidere ogni cosa e in base al suo comportamento cambierà anche l'atteggiamento di tutti i personaggi che verranno incontrati nel corso dell'avventura. E così, mentre la trama principale sarà simile per tutti, quella secondaria sarà differente per ognuno. Giudicato in assoluto uno dei migliori titoli dell'anno, Skyrim è disponibile per PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Per i possessori di Nintendo Wii, il titolo consigliato è senza dubbio The Legend of Zelda Skyward Sword. In questo gioco d'azione e avventura, dove per un'esperienza più completa è necessario avere la periferica Wii Motion Plus, si vestono i panni di Link, un ragazzo nato e cresciuto a Oltrenuvola, un gruppo di isole galleggianti sopra le nuvole. Un giorno Link scopre la Skyward Sword, una spada che lo porta in un altro mondo, la terra sconosciuta sottostante, governata dalle forze del male. E utilizzando la spada che permette di viaggiare avanti e indietro tra cielo e terra, verrà rivelato a Link, poco a poco, il perché i due mondi siano stati separati. 100 ore di gioco fra terra e cielo per ritrovare Zelda, cercando di sconfiggere il malvagio Demon Lord Ghirahim, una figura misteriosa e potente che governa il mondo di superficie, solo per Nintendo Wii. E ora attenzione, perché fra poco due di voi potranno portarsi a casa il gioco di cui sto per parlare in edizione limitata. RPG, RPG, colpite i lanciatori prima che sparino! 21 dicembre 2012. Un gruppo ribelle denominato SRN insorge in una non meglio precisata zona dell'Africa orientale. In cerca d'aiuto, le nazioni del Medio Oriente e dell'Africa chiedono rinforzi all'Organizzazione delle Nazioni Unite, che a loro volta lasciano in mano la soluzione del problema alla NATO. Scritto da Gin De Felice, autore di bestseller militari e giornalista del New York Times, Ace Combat Assault Horizon è un simulatore di volo arcade che vi vedrà piloti di caccia, elicotteri e bombardieri. Qui Dagger 3, coordinate confermate, attacchiamo! 1 per noi! La rapida espansione delle violenze tramite azioni di guerriglia in tutta l'Africa, avvantaggiate anche grazie all'uso di armi insolitamente avanzate per il continente africano, costringe i vertici della NATO a costituire una forza d'attacco specializzata, la Task Force 108, un'unità militare comandata dal generale francese Pierre Lapointe e formata da Stati Uniti, Russia e Francia, con lo scopo di utilizzare mezzi aerei, terrestri e navali per sedare le rivolte. Ai miei uomini non serve l'aiuto degli americani, generale. Affronteremo i ribelli da soli. La scorta di caccia è una procedura standard, generale Staglioshov. Lei lo sa. La politica NATO. Noi siamo russi, generale Lapointe, non della NATO. Maggiore Ilyichev. Sì, generale. Porti in volo la sua squadriglia. Sì, signore. Voi impersonate il colonnello William Bishop, leader della TF-108. Ben presto però la situazione degenera, con la scoperta da parte della NATO di una nuova arma di distruzione di massa in possesso dei ribelli e denominata Trinity, la cui potenza è paragonabile a quella di un piccolo ordigno nucleare. L'obiettivo della TF-108 diventerà quindi quello di trovare e distruggere tutte le armi Trinity e di porre fine a questa guerra aerea. La zona presenta segni di attività aerea nemica, ci serve tutto ciò che lei, la Task Force 108, avete. Abbiamo raccolto delle informazioni su questa nuova arma che gli elicotteri hanno incontrato. Le passi all'ufficiale preposto appena possibile. Sì, signore. Ma a complicare le cose sarà l'entrata in gioco del colonnello Andrei Markov, leader delle forze ribelli in Africa e pilota chiave della nuova Federazione Russa, una nazione sorta grazie a un colpo di Stato in Russia da parte di un comando di ribelli e mercenari. Federazione che ha in serbo un grave attacco agli Stati Uniti. Sta bruciando, viene verso di noi. Attenzione, la radiocisterna ha perso il controllo, via dalla pista! World War 3, non posso arretrare, resta in attesa! Ritirata, ritirata! Attenzione, uno, attenzione! Ace Combat Assault Horizon, pur essendo uno sparatutto in volo, ha una trama molto interessante ed è velocissimo. Potrete affrontare la storia da soli o in cooperativa, o ancora, se preferite, potrete giocare contro i vostri amici con battaglie che possono coinvolgere fino a 16 giocatori online. Fra le novità più interessanti di questo nuovo capitolo della saga Ace Combat c'è il nuovo sistema di attacco a corto raggio che vi permette di affrontare combattimenti ravvicinati molto emozionanti, sia da un punto di vista grafico sia tecnico. Disponibile per PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo 3DS, Ace Combat Assault Horizon è disponibile anche in un'edizione limitata che contiene, oltre al gioco, anche il diario di bordo, la colonna sonora e uno straordinario modellino di elicottero radiocomandato. E visto che è Natale, i primi due ascoltatori che invieranno una mail a videogiochi@radio24.it riceveranno l'edizione limitata del gioco in versione PlayStation 3. E con la patria dedicata al mondo dei videogiochi abbiamo chiuso questa puntata natalizia del Riposo del Guerriero. Ancora buon Natale a tutti da Stefano Gallarini, da Giorgio De Luca che si è occupato della redazione e da tutti i tecnici. Ci sentiamo a Capodanno, sempre alle 10.